crescerai poi aggrappato a quei sogni tuoi. E ti vedo così un po' imbronciato, anche se poi non è vero e ridi meglio di te, guardando più in là, guardando più in te, vivi il tempo un po' come vuoi. E più limpidi poi noi, che un futuro avremo forse mai, ma in questo momento ci stiamo capendo, sapendo che più limpidi per noi i cieli, i giorni che saranno poi. In questo momento ci stanno aspettando, correndo. E ti ricordi di noi, confidenti e felici, e i giorni passati a rincorrere sei, e a riderti noi, che capimmo poi di cantare per essere qui. E poi fu così che cantasti me, che cantammo lei, imparando la vita e le sue tonalità, le strofe versate, i versi tornati, ritornelli di eternità. In questo momento ci stiamo capendo, sapendo che più limpidi per noi i cieli, i giorni che saranno poi. In questo momento ci stanno aspettando, correndo. Vedo così un po' imbronciato, anche se poi non è vero e ridi meglio di te, guardando più in là, guardando più in te, vivi il tempo un po' come